spostati. Ma cos'è? La retro, no? Ah, pensavo fosse l'elettrocardiogramma. Chiedo asilo. Allora, siamo agli sgoccioli. Dopo domani finisce il mondo, domani quindi è l'ultimo giorno della Terra. Basta. Vabbè, e non facciamone un dramma. Ma io sento un po' la necessità di prepararmi spiritualmente. Non posso sopportare l'idea di stare qui all'asilo quando domani, dopodomani finisce, come se niente fosse. Ma scusa. Allora fai gli esercizi spirituali come Formigoni, no? Credo proprio che non sia il caso. Ma chi è questa qua? È Formigoni che parla così. Sembrava invece la De Filippi. Comunque, non ti lamentare, Drago. Affronta stoicamente la fine. Fai come me. E tu come fai? E come faccio? Dopodomani mi chiudo in casa, mi metto sul divano. Tito, sì. Tito, sì, anche tu sul divano. Sì. Guardiamo la TV, mangiamo i popcorn, vabbè, come sempre, no? Tu sotto sotto sai che la profezia mai è una bufala, di la verità. Sotto sotto però, no? Sotto. Ma sotto sotto tutti lo sanno, forse tutti lo sperano. A forza di parlarne però e di fare il conto alla rovescia. Mancano giorni alla fine del mondo. Alla fine ci si finisce per crederci, no? Crederci, come si dice? Vabbè, dai. Ma cosa crederci, dai, sì? Senti Tito, poverino, non sa niente della profezia Maya. Non lo sa, ma non gli piacciono le parole profezia Maya e neanche crederci, sì. Ma sai, vero, che Tito, adesso che ci penso, potrebbe essere il primo ad accorgerci della fine del mondo, perché i cani sono ipersensibili ai terremoti, quelle robe lì, figuriamoci come sono sensibili alla fine del mondo. Potresti aver ragione, infatti è un bel po' che Tito è un po' geure, quindi evidentemente lo sta sentendo da un po' che il mondo sta per finire. Non so che è geure, mi ha pure morsicato qualche giorno fa, hai capito? Il peggio è quando ti morde i piedi da sotto le lenzuola. Vabbè, adesso capo, non degeneriamo nei discorsi sui cani, sennò qualcuno potrebbe anche incazzarsi. Perché? Scusa. Perché c'è già un sacco di polemica in rete su quelli che postano foto di cani e gatti e su quelli che poi mettono like alle foto di cani e gatti. Sì. C'è anche polemica sui TG che alla fine mettono le notizie, sai, sui cani, gatti, gli animali. Quindi figurati se ci mettiamo a parlare di cani e gatti anche alla radio, dove non ci sono nemmeno le foto da far vedere. Secondo me invece un programma radiofonico, mi stai dando un'idea, un programma radiofonico di sicuro successo sarebbe proprio un programma in cui gli ascoltatori chiamano e parlano del loro cane, del loro gatto, del loro iguana, l'ho capito? Tipo? Ma tipo... Pronto? Salve, sono Francesco e chiamo dalla provincia di Milano. Ciao Francesco, allora tu hai un cane o un gatto? Salve. Francesco? Sì. Tu hai un cane o un gatto? Un gatto. E di che colore è? È bianco e nero. Ah, bello, bianco e nero, un classico, eh? Bianco e nero col naso rosa. Sì, sì. Ecco, e come si chiama? Si chiama Felix. Felix, beh, certo, un classico anche il nome, perché i gatti bianchi e neri o Felix o Silvestro, no? Sì, sì. Bene, e che cosa fa di speciale Felix? Fa la cacca. Ah, bravo, eh. Allora, nel vaschetto. Un applauso proprio meritato e complimenti a Felix e complimenti anche a Francesco e grazie per averci chiamato. Grazie, ma questo non è un telefono, è un megafono. Grazie per averci megafonato. Prego. E ora, bambini, ricreazione. Capito, un programma così è successo assicurato. Cioè parli del tuo gatto che ha fatto la cacca, gli hai cambiato la sabbietta, il cane non voleva uscire. Ma sai che sembrava una stronzata, però alla fine hai ragione. Ma scusate, gli animali anche alla radio. Perché no? Ma dai, non basta la televisione. E Facebook? Appunto, perché Facebook, te l'ho detto che è c'è gente che non può, ecco. Ma vi rendete conto su Facebook quanta gente mette le foto dei propri cani e gatti? Sì, vabbè, perché? Ma cioè, non capisco questa cosa compulsiva. Come possono pensare che a me interessi di vedere il loro gattino? Ma mica pensano a te. Cioè. A me in senso generico, vabbè, no? Ma l'idea è quella della condivisione, no? Ormai la condivisione è il modo nuovo di comunicare. Cosa vuoi che ti dica, bambino Alberto? Aggiornati. Ma cosa mi comunicano? Cioè, com'è simpatico il loro cagnolino con gli occhiali da sole? Devo ridere? C'è anche la copertina di Ma cosa Zappa, me ne frega a me? Pucci che si fa il bagno? Ambrogino che fa il salto in alto, ma c'è cosa me ne frega a me? Ambrogino d'oro. Cioè, non gli basta avere l'animaletto a casa. Tu, il tuo animale domestico te lo tieni e via, no? Sì, no, io ne metto le foto. No, però ha ragione, infatti. Anche tu ce l'hai sul telefonino, sullo sfondo. Sì, certo. Ha ragione il bambino Alberto, dai. Questo, perché bisogna condividere tutto? Voglio dire, mi inquieta un po'. Voglio dire... Cioè, va bene una volta ogni tanto, ma... Cioè, però in fondo sono animali. Bambino Alberto, alla fine, se condividessero, che ne so, dei mitragliatori, sarebbe più inquietante. Oh, vedi? Sono degli animaletti. E poi tu sei un bambino, quindi gli animaletti dovrebbero piacerti. Scusa, bambino Alberto. No, a me no. Cioè, attenzione, se li guardo nei documentari mi piacciono, no? La giungla, la savana, il belve feroce, la giraffa, il rinoceronte, capito? Ma quelli domestici no. Vabbè, ma sei il sogno di ogni bambino quello di avere un cucciolotto. Di rinoceronte. Sì, anche. Per me è un incubo, non un sogno. Ma lui è diverso da tutti, sempre. No, ma sai perché? Perché dopo... Cioè, lo capisci cosa significa avere un animale domestico? Tanta compagnia, amore. Che compagnia? Tanto devi dare da mangiare, devi portarlo a fare i bisogni in orari assurdi quando vuole lui, e se sgarra di 5 minuti ti fanno la pappa sul tappeto. E vai di pulire. E poi sbavano, puzzano un po', quando piove puzzano, vogliono giocare sempre. Cioè, vi rendete conto, no? Sì, pulire tu non ti vedo, perché quando l'ha fatito ti viene da vomitare solo a pensarci. Quindi, appunto. Cioè, appunto. È quello lì il bello, quello di occuparsi dell'essere vivente, no? Una specie di responsabilità. Ma perché? Anche. Perché scusate, il tuo amico, lui è il tuo amico che dipende da te, gli dai da mangiare, gli lavi il sedere. E poi giochi, no? No, allora, queste parole te le tieni per te. E poi, in primis, cioè, con un amico io ci gioco la Wii, cioè, col cagnolino mica ci gioco, no? E neanche col gattino. Sì. Anzi, magari nel pieno di una partita di tennis, lì che va pim, puto, pam, arriva tutto trafelato, ansimante, e tutto agitato, no? E non se ne va via finché non lo consideri. Che poi non sai che cosa vuole, no? Cioè, non sai se vuole giocare, se ha fame, se gli scappa la pipì, la popò. Cioè, è un inferno. Vabbè, allora, tu cerca di immedesimarti. Tutto sommato, anche tu sei stato un cucciolo fino a poco tempo fa. Anche sei tu ancora. Piangevi, allora, facevi parte... i capricci, non si capiva il perché. Avevi fame, avevi mal di pancia, allora, eccetera. No, stessa il cucciolo cosa. Che lo sono ancora, sono tra parentesi. Sì, ve lo lascio, questo ve lo lascio. Ce la lascia. Ma quindi, appunto, io sono già un bambino. Non voglio occuparmi di niente e di nessuno tranne che di soddisfare i miei bisogni primari, no? Cioè io non ci penso proprio a occuparmi dei bisogni suoi. Che tra l'altro, è qui, riapro parentesi. Cioè, a proposito dei bisogni, cioè, voi sapete che quando si porta in giro il cane, no? Perché voi già dire che i gatti si fanno gli affari loro. Li metti lì la vaschetta. Eh sì, però poi la vaschetta è un'altra categoria. È un'altra categoria. Cioè, diventa l'area 51 la vaschetta. Esatto. Vabbè, quello, se non ci vai per 2 giorni, poi dopo entrarci. All'altra qualcuno passa e via, spazzando. Sì. Vabbè, qualcuno, genitore. Ma quando si porta in giro il cane? Sì. Beh, perché la pipì bisogna dire che la può fare dove vuole, no? Sì, cioè, beh, insomma, come vuole, no? Se vai in un negozio, all'angolo del negozio, la gente vabbè, entra e esce. Vabbè, dappertutto, no? Ah, cassette della frutta, Tito, ogni tanto le fa. Ti vendo. Lui si ferma, alza la gamba, la fa e via. Ma quando deve fare il bisogno grosso? Quello lì, quando lo fa, poi, bisogna anche raccogliere. Eh beh, obbligatorio, legge, la legge. Vabbè, mi sembra una cosa normale. Scusa. Ma scusate, obbligatorio tirare sul bisogno del cane? Un po' di buona educazione da parte di chi ha un cane, insomma. Il bisogno grosso, Ma no, ma non voglio dire puliti, questo è educazione. No? Non so come ma dire. Ma cosa c'entra cammini. L'educazione? Voglio dire, vi sembra normale che io debba raccogliere la cacca del cane? E chi la deve raccogliere? Cioè, io non potrei mai, cioè, mi viene solo il pensiero, mi viene la nausea. Ma sì, l'abbiamo detto. Io non sono mica un bambino ingenuo, Non è che mi faccio incantare dai cuccioli. I limusini che sorridono e giocano. Perché io so cosa c'è dietro l'apparenza. E cosa c'è dietro l'apparenza? Dietro l'apparenza c'è che alle 6 di mattina, se lui deve andare giù a fare la pipì, o come si dice in gergo, deve andare a pisciare, questa l'ho detta, devi andare. Se no mugola, urla, fa i disastri, la fa lì. Poi scendi giù, dici vabbè, lo porto a fare la pipì, tanto fra un po' vado all'asilo. C'è troppo, tra 3 ore, quindi sto qua. Vado giù al giardinetto, e lui cosa fa? Fa la pipì, Lui sì, faccio la pipì, perché me lo fa capire. E poi fa la popò, capito? E lì a popò. E se fossi solo io me ne vado, perché invece sempre lì c'è il portinaio che mi guarda, no? Vede il cane che fa la popò e poi mi guarda e dico, beh, allora... Cioè, non è che io dico, però con gli occhi dico, lui fa... E la salviettina? Come dire, il sacchettino per tirare su, ma io non posso tirare su. Mi viene la nausea, capisci? E quindi? Allora, cosa faccio? E sto lì fermo, no? Fino alle 9, quando i miei hanno chiamato già i pompieri e la polizia perché sono sparito. E poi mi trovano. E allora quando arrivano loro, ero tirato su loro, no? Capito? Me li portano all'ospedale, perché se d'inverno alle 6 di mattina con la popò del cane e il portinaio. Chiedo asilo. Cos'è tutto sto traffico? 2 giorni dalla fine del mondo, come fanno le persone a passare tutto il loro tempo in auto? Io non lo so. In auto, anche tu sei in auto, solo che è parcheggiata lontano, ma è tecnicamente vero. Sei in auto, sì, anche sì, sono tu. In auto, però io cerco di usarla il meno possibile in questi giorni, perché capito? Vuoi inquinare poco, tanto ormai è tutto finito, Drago. Ma non è per inquinare poco, è per non avere l'impressione di sprecare il mio tempo chiuso in un abitacolo, insomma. Vabbè, allora vai a piedi, in mezzo allo smog, agli alberi spogli, con un freddo assurdo. Ma cosa ci vuoi fare, Da noi il mondo finisce d'inverno. In Sud America almeno finisce in piena estate. Sai che feste da quelle parti in spiaggia? Aspettano lì la festa. Eppure il poeta diceva: che diritto all'inferno è meglio andarci d'inverno, quindi alla fine la festa sì, però, scusa, rovina un po' tutta la faccenda. Il poeta in questione, eh? Che è Fabrizio De André. Fabrizio. Lui è proprio, vogliamo fare i perfidi, lui ha proprio rispettato la sua cosa, perché è morto l'11 gennaio, in pieno inverno, col freddo e tutto quanto. Ha cantato tutta la vita quei versi lì e alla fine, puntuale, tac, l'11 gennaio, con un freddo cane, anche lui è morto. Sì, però non è andato all'inferno, dai.